Capitolo 14. Anversa. 6 maggio 1538. Il nuovo scalpellino lavora a meraviglia. Baltasar non ha perso tempo. Me lo ha fatto trovare proprio questa mattina sul tavolo dello scrittoio. La punta solleva riccioli di legno come un cucchiaio sul burro, mentre lo sguardo incredulo di Eloy accompagna ogni colpo del martelletto, ogni scheggia che vola sul pavimento, ogni particolare della cattedrale di Strasburgo che esce in rilievo dalla tavoletta. «Davvero notevole», commenta, aggrontando le labbra. «Dove hai imparato a usare le mani così bene?» «Ho fatto più fatica a impratichirmi con la spada che con questo», rispondo, alzando l'arnese affilato. «È stato a Strasburgo. Lavoravo in una stamperia della città come operaio compositore. C'era un tizio che faceva le illustrazioni per i libri. Durante le pause, poggiava le lastre del bulino e prendeva in mano la sgorbia. Ha fatto il ritratto di ognuno di noi e a ciascuno lo ha regalato in decine di copie. Ripeteva sempre che una cosa bella non deve mai essere unica. È lui che mi ha insegnato a intagliare il legno». Osserva il disegno per un attimo, poi indica la data in un angolo. «È da molto che avevi interrotto il tuo passatempo». Alzo le spalle. «Sai, ero sempre in giro. Mi tenevo in allenamento scolpendo delle statuine che poi regalavo ai bambini. A Münster avevo ripreso, poi, beh...» Un sorriso copre la scusa. «Ho perso gli attrezzi da qualche parte». Eloy esce e ricompare con la solita bottiglia di liquore. Ormai so bene cosa significa. Mi porge il bicchiere colmo. «Non sapevo ti fossi trovato un mestiere a Strasburgo». «Grazie a Cellario. Le botteghe degli stampatori mi hanno sempre attirato. I libri hanno un fascino particolare». Lo scalpello alza qualche scheggia. È ora di passare al coltellino per i dettagli più piccoli. Eloy si interrompe per seguire le fasi della lavorazione, poi riprende a parlare. «Fammi capire, a Strasburgo avevi trovato una certa tranquillità, un amico affettuoso, una donna piena di vita, un mestiere. Perché non sei rimasto là?» Lo guardo negli occhi, parlando lentamente. «Hai mai sentito parlare di Melchior Hoffman?» Questa volta è incredulo. «Non mi dirai che hai conosciuto anche lui?» Annuisco con la testa, in silenzio, sorridendo per la sua reazione. «Si può dire che lui sia stato solamente la causa finale della mia partenza. A quel tempo erano già successe molte cose». Mi rendo conto che comincio a provare gusto nel raccontare. Mi compiaccio di creare attesa, interesse. Anche lui deve aver notato il cambiamento. Ogni tanto mi dà corda. Altre volte, come in questo caso, rimane in silenzio e aspetta che sia io a riprendere. Ursula, col passare dei mesi, cominciò a diventare sempre più insofferente nei confronti dell'atmosfera che regnava in città. Mi ripeteva che a Strasburgo viveva un sacco di gente con idee innovative e brillanti, ma l'unica cosa che la differenziava dalle altre città tedesche era la possibilità di esprimere quelle idee in una veste colta e raffinata. Il suo grido di battaglia diventò: «A Strasburgo l'eresia è vivere». Alzo gli occhi dal finissimo intaglio del rosone della cattedrale. Eloy ascolta, col mento poggiato al dorso della mano. Il piacere del passatempo ritrovato scioglie le parole ancor più del liquore. «Andava in giro per le piazze a dare spettacolo, specialmente ballando danze considerate lascive o rozze, suonando il liuto e cantando gli stornelli della gente di strada. Coinvolse anche me». Eloy ride di gusto. Appoggia il bicchiere sul tavolo. «Io ho sentito cantare qualcosa mentre tiravi su la palizzara dell'orto. Se il vostro scopo era quello di rendere la gente più nervosa, Ursula ha fatto bene a ingaggiarti». «No, niente canto, per carità. Cominciai facendo il muratore. La prima azione che scogitammo fu quella di entrare di notte in una chiesa e di erigere un muro di mattoni davanti alla scalinata del pulpito. Sopra ci scrivemmo pure una frase di Cellario: "Nessuno può parlarmi di Dio meglio del mio cuore". Il liquore intanto cominciava a fare il suo effetto. Lo scalpellino mi sfugge più di una volta dal segno, finché non arrivo a staccare di netto un pezzo del campanile. Toccherà rincollarlo. Il più bello di tutti, comunque, è stato certamente lo scherzo che abbiamo tirato a Madama Buoncuore Carlotta Hazel. Devi sapere che Carlotta Hazel era una delle tante dame della città ad aver allestito in casa una mensa per i poveri e i vagabondi. Li faceva pregare e mangiare, bere e cantar salmi. Conosco il genere, purtroppo. Ursula non la poteva nemmeno sentir nominare. La odiava. In quel modo speciale in cui soltanto una donna può odiarne un'altra. D'altro canto, Madama Buoncuore aveva la fantasiosa caratteristica di considerare i poveracci come dei santi. Il suo motto era: dategli il pane e loderanno Dio. Ursula non era dello stesso avviso. Diceva che chi non ha nulla, una volta riempito lo stomaco, ha ben altro in testa che il pregare. Bere, scopare, divertirsi, vivere. Diciamo che alla prova dei fatti la sua teoria si dimostrò molto più azzeccata. Quali fatti? La colossale orgia a cui demmo vita nel salone di casa Hazel. Non so cosa avrei dato per partecipare alla dimostrazione del teorema, esclama divertito Eloy. Tuttavia, non vedo cosa questa storia abbia a che vedere con Melchior Hoffman. Solo un attimo di concentrazione per l'ultimo colpo. Soffio via la segatura e alzo la tavoletta all'altezza degli occhi. Perfetta. Faticherai a crederci, amico mio. Anche Melchior, il visionario, alla fine è uno degli spettacoli dell'affermata compagnia teatrale Leonard e Ursula Jost.